Allora, i materiali che analizziamo oggi ci portano, beh, direi dritti nel cuore pulsante di Catania. Alla pescheria. Esattamente, la pescheria. E la nostra missione, se vogliamo, è un po' quella di costruire una sorta di... Audioguida. un'audioguida su misura, però. Sì, esatto, qualcosa che vada oltre la semplice descrizione turistica. E tutte le fonti che abbiamo, dai saggi di storia urbana al folklore, si chiedono la stessa cosa. Cioè, cosa rende questo mercato così speciale? Proprio così. Cosa lo rende più di un posto dove si vende il pesce? E la prima risposta, quasi istintiva, arriva dai sensi. Ah, beh, certo. È un'ondata di suoni, di odori, di voci che si accavallano, quasi un coro musicale. Ricorda un po' un sucarabo, no? Sì, l'atmosfera è travolgente, è vero. Però una delle fonti, una guida storica, suggerisce una cosa interessante. Cosa? Che per capire davvero l'anima del mercato, forse, bisogna guardare meno l'umanità e più la pietra. Proprio L'architettura, dici? così. La posizione è la chiave di tutto. I banchi, vedi, non sono in una piazza qualunque. No. Sono letteralmente incastonati in un tunnel. Un tunnel scavato nel 500, pensa, nelle mura di Carlo V. E questo proprio sotto il palazzo del seminario dei Chierici, se non sbaglio. Esattamente lì. E il mercato è lì dall'inizio dell'Ottocento. Ma il paesaggio era completamente diverso. Ecco, qui la cosa si fa davvero interessante. Un altro testo che abbiamo sull'urbanistica catanese lo spiega bene. Ah sì? Dove oggi noi vediamo un'area verde, un tempo c'era il mare. C'era il mare, incredibile. Il mercato si affacciava direttamente su un porticciolo, gli archi della marina, che oggi sembrano quasi fuori contesto. Allora erano a picco sull'acqua. Appunto. Quindi il mercato non è solo vicino al porto, è nato dal porto, in uno spazio ricavato dalle difese della città. Proprio così. E questa trasformazione, diciamo, fisica, è fondamentale. In che senso? Beh, ha separato il mercato dal suo elemento naturale, il mare, ma al tempo stesso ne ha consacrato la posizione storica. Lo ha reso una specie di fossile urbano Mi vivente. piace come definizione. Non è un caso che venga paragonato spesso alla Vucciria di Palermo, no? Certo, sono entrambi teatri a cielo aperto. Sì, ma la pescheria ha questa cicatrice architettonica, il tunnel, che le dà un carattere unico, quasi teatrale. Si entra in scena passando sotto un arco di pietra. E a proposito di teatro, c'è un aneddoto perfetto che ho trovato in una raccolta di poesie popolari. Ah, sentiamo, è di un poeta locale, Francesco Buccheri, e cattura lo spirito del luogo in poche righe. Dice: «L'autru giorno, nella piscaria, a vuci forti dissi: Cavalieri, ok?» Si nivoltarono sulla vita mia una cinquantina, davanti ed arrieri. Ah, fantastico! Lui urla cavaliere e si girano in 50. Esatto. A prima vista sembra solo una scelta divertente, ma le note a margine suggerivano un significato sociale molto più profondo. Vero, assolutamente. Il genio di Bucheri sta nel dettaglio che aggiunge dopo, Cioè. cioè che si meraviglia che a girarsi sia stato persino uno scaricatore del porto. Quel dettaglio, capisci, trasforma l'aneddoto in un'osservazione sociologica acutissima. Quindi non è solo una battuta. No, per niente. L'atto di gridare un titolo onorifico e ricevere una risposta corale da persone di ogni ceto, compreso l'ultimo gradino della scala sociale, beh, ci dice che la pescheria è un luogo di momentaneo livellamento. Dove le distinzioni si fanno più sfumate. Sì, per un attimo, tra quei banchi, sotto quelle volte, tutti partecipano alla stessa rappresentazione. Quindi quello che descriveva Buccheri non era folklore. Era una dinamica sociale unica, quasi un rito, che avviene solo lì. Esatto, questo collega perfettamente l'architettura alla vita che la abita. Il tunnel non è solo uno sfondo. È il palcoscenico che rende possibile tutto questo. È l'essenza del luogo. La pescheria è un organismo dove la storia delle mura, le voci dei venditori e le dinamiche sociali si fondono. Un'esperienza unica. Tornando quindi alla nostra missione, all'idea dell'audioguida, la risposta è chiara. La pescheria è più di un mercato, perché è un monumento vivente. Le fonti ce la mostrano come un luogo dove l'architettura non è un contenitore passivo, ma un attore che modella la vita sociale. Non si va lì solo per comprare il pesce. No, si va per partecipare, anche solo per pochi minuti, a un pezzo di storia che si ripete ogni singolo giorno. E questo ci lascia con un'ultima riflessione, forse. Vai. Mentre si cammina tra questi banchi, viene da chiedersi: quante storie non scritte, quante voci del passato riecheggiano ancora in questo tunnel, mescolate a quelle dei venditori di oggi?